Italia in controluce. La cronaca italiana su Radio 24 per Italia in controluce. Buona mattina per quest'oggi 30 settembre da Daniele Biacchessi. C'era una volta un grande gruppo musicale italiano che fondeva il jazz, il rock, la sperimentazione e che era guidato da un genio raro della musica che si chiamava Demetrio Stratos. C'erano dunque una volta gli Area International Group. E oggi gli Area sono tornati. Sono tornati dopo la prematura morte di Stratos nel 79, dopo che i componenti del gruppo hanno intrapreso strade musicali diverse. Ma su quale base artistica? Lo abbiamo chiesto a Patrizio Fariselli, l'attuale leader degli Area, pianista e compositore. È stato avviato un percorso, quindi diciamo che il lavoro adesso degli Area, e quindi di mio, di Area Stavolazzi e Paolo Tofani, supportati alla batteria da Walter Pauli, è un work in progress che tiene conto insomma della nostra maturità. Siamo tutti sull'orlo dei 60 anni, quindi siamo dei maestri che stanno cercando di rifare il punto della situazione, delle esperienze personali di questi ultimi anni che mi ha fatto singolarmente, per vedere se queste nuove sensibilità possono ancora dialogare e soprattutto produrre qualcosa di altro. Gli Area erano nati negli anni 70, nei primi anni 70, in un periodo convulso, costellato anche da lotte politiche, lotte sociali molto forti. Forse esprimevano anche quello che era il sentimento di un certo tipo di movimento. Oggi, nella seconda parte dei vostri spettacoli, riprendete un po' il filo di quegli anni, dalla Mela di Odessa a Gioia e Rivoluzione, a Luglio e Settembre Nero. Cosa è cambiato però nel frattempo? Perché l'Italia è diversa. Dire che sia diversa l'Italia adesso è il minimo. Però, visto che l'hai citato, suonare adesso Luglio, questo Settembre Nero, che è stato scritto nel 1971, perché esisteva il problema di un popolo senza terra, cacciato dalle sue, da casa propria, e un problema gravissimo irrisolto, vedere che adesso è esattamente lo stesso punto di prima, se non aggravato da tutti questi anni di cose orribili che stanno succedendo, capisci? È una cosa che mi addolora parecchio e tra l'altro mi fa, insomma, da musicista piacere, insomma, di aver nel 1972 avuto la forza di parlare di un argomento così scomodo, anche perché quando uscì il pezzo, il disco a Bad Mass Fry, era appena successo per la prima volta il grave problema, la grave situazione di Monaco, insomma. Quindi noi adesso in questo ciclo di concerti che stiamo facendo rivolgiamo un po' uno sguardo verso il vecchio materiale, un po' affettuoso e un po' divertito, lontano da noi la tentazione di fare dei revival o qualsiasi altra cosa di questo genere, così andiamo ad accarezzare queste note cercando tra le pieghe se ci sono dei contenuti che ci sono sfuggiti musicalmente parlando, perché adesso noi non utilizziamo la parola, non abbiamo un cantante e quindi musica strumentale, quindi non si riesce a veicolare direttamente, non si vuole veicolare direttamente dei contenuti attraverso la parola. Adesso il nostro impegno è sulla musica, sulla cultura. Se tu pensi che viviamo in un paese dove la creatività non è riconosciuta come valore, la cultura è trattata in un modo indecente, fare un discorso di qualità è potentemente un fatto politico. C'è un personaggio importante che ha attraversato e che in qualche modo attraversa ancora la musica degli Area, anche se non c'è più, che è Demetrio Stratos. Lui è morto prematuramente, ma rispetto a un giovane, un ragazzo, voglio dire, ci sono i documenti, ci sono le registrazioni, si può sapere tante cose di un artista, e la cosa che più colpisce, io vedo insomma, parlandone in giro, è l'evoluzione di questo artista che ha cominciato molto giovane diventando una pop star, se vuoi, in Italia, poi attraverso gli Area passa attraverso un percorso di maturazione molto pesante come cantante, perché gli Area non hanno mai fatto canzoni, e quindi il suo era un contributo da musicista, da progettista di musica che, guarda caso, aveva delle potenzialità vocali non indifferenti, ma era un musicista, era uno strumentista ed era un compositore, quindi questo è una delle grosse differenze. E poi, insomma, attraverso questo decennio di lavoro, attraverso gli Area, lo ha catapultato in avanti, sempre sull'onda della curiosità verso il nuovo e lo sconosciuto, ad approfondire le tematiche sulla voce e la sperimentazione di una vocalità diversa. Quindi, se tu vedi l'arco di vita di questo artista, insomma, veramente c'è molto da cui attingere. Per quello che riguarda noi e la nostra reunion, la tentazione di dire ma una volta era un'altra cosa il gruppo, io rispondo sempre certo che era un'altra cosa, quello era un gruppo molto compatto, con un livello di dialogo interno molto forte, che si basava su 5 personaggi, non da ridere, non vorrei dimenticare anche il povero Giulio Capiozzo che ci è mancato nel 2000, poco tempo fa, insomma, quindi da parte ritmica degli Area, che non è mai stato uno scherzo. Quindi quando adesso ci dicono ma state rifacendo gli Area, io rispondo sempre non stiamo rifacendo assolutamente un bel nulla, noi siamo gli Area, quella musica appartiene al nostro DNA, e quindi, come tu insomma hai visto anche al concerto, il nostro sforzo è quello di costruire qualcosa di nuovo, più aderente alle problematiche attuali. Era la prima edizione di Italia in Controluce, tutta dedicata alla musica degli Area. Su radio24.it potete ritrovare e riascoltare questo programma. Torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24 con uno speciale dedicato agli incidenti sul lavoro.